La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 132. Si può, con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di 1 milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati, espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra. L'articolo 132 riguarda la fusione delle regioni e lo spostamento di province e comuni. Infatti la Costituzione prevede che possano essere costituite innanzitutto nuove regioni. Per costituire nuove regioni occorre avere un minimo di abitanti di 1 milione e poi serve una richiesta di consigli comunali che rappresentino 1/3 delle popolazioni interessate più un referendum che riguarda la maggioranza delle popolazioni interessate. Questo meccanismo, contenuto nel primo comma dell'articolo 132, non è stato mai applicato in Costituzione, perché è sì vero che rispetto al disegno originario è stata aggiunta una regione, il Molise, ma tuttavia il Molise è stato aggiunto in base a regole speciali. Infatti il Molise non raggiunge il 1 milione di abitanti e fu scisso rispetto alla regione Abruzzo. Sappiamo che oggi il tema del numero delle regioni e della loro estensione è oggetto di ampio dibattito, ma tuttavia questo è un dibattito solo politico, che va dall'idea di abolizione delle regioni o dall'idea di una loro contrazione o addirittura da una sostituzione solo con province. Del resto va ricordato che le regioni sono una creazione tipica del Costituente. Infatti l'ordinamento precedente, l'ordinamento statutario, prevedeva soltanto province e comuni. L'aggiunta delle regioni venne pensata in Assemblea Costituente per offrire maggiore amalgama ai territori. Forse dopo 70 anni ciò non è accaduto completamente e quindi forse dobbiamo ripensare il disegno regionalista. Il secondo comma dell'articolo 132 riguarda invece la possibilità che un comune o una provincia si spostino da una regione all'altra. Questo istituto, questo meccanismo, non è stato usato per decine di anni e poi dalla metà degli anni 90 alcuni comuni hanno cercato l'aggregazione con altre regioni. Forse i casi più noti, più famosi sono San Michele al Tagliamento e La Mon, comuni che volevano staccarsi dalle loro regioni e in particolare La Mon passare dal Bellunese al Trentino Alto Adige. Tuttavia il meccanismo prevede che serve inizialmente un referendum delle popolazioni interessate, ma poi serve una legge parlamentare. Il caso, quello forse più famoso, di La Mon, avviato nel 2004, non ha ancora trovato compimento, perché nelle 3 legislature successive al referendum popolare locale la legge non è mai stata approvata in Parlamento. C'è invece un caso di una serie di comuni che sono stati staccati dalla regione Marche per passare all'Emilia-Romagna. Sono in particolare i comuni della cosiddetta Alta Valmarecchia, questa zona che invece è riuscita fra il 2009 e gli anni successivi a compiere il passaggio da una regione all'altra. A livello sistematico, forse oggi dovremmo ripensare anche questo istituto per capire se ha ancora senso interessare con referendum le popolazioni e cercare quindi poi di spostare un comune da una regione all'altra.